Pronto? Dia quel demente controrivoluzionario che se ne sta al microfono che non si azzardi più a dare alito e spazio alla rivendicazione falsa di Genova della nostra colonna Francesco Berardi, perché altrimenti se ne assume ogni responsabilità. Ogni responsabilità prima di tutto di fronte alla nostra organizzazione. È chiaro che di fronte alle lotte che ci saranno nel settembre i padroni ti danno una risposta. Sono anni che lo fanno e non l'avete mai capito. Comunque sia ben chiaro che l'aspetta di fare il bastardo al telefono, Dio cane. Scusa, non ho capito chi parla, chi siete? Le Brigate Rosse, colonna Valtera Lasia. Ma perché? Scusa, è stata fatta una telefonata a Genova o no? Senti un po', tu sai benissimo che per un pilla si mette al telefono, ci vuole poco, però porco Giuda, voi ci state da una vita a sentire la politica, no, Dio cane, da quanti quali facciamo bastardate di questo tipo, al di fuori di ogni concessione politica o no? Sì, ma mi è sembrato di dire, abbiamo detto che la sensazione che noi avevamo era sì, che... Sì, ho capito quello che tu hai detto, però porco Giuda, hai detto dopo 10 minuti che eri, come si chiama, che hai dato una notizia dicendo che certo, non facciamo ancora queste cose anche se parlare di mucche o quelle cose che hai detto, però guarda che l'impressione che si è avuto all'inizio è stata di una... Cioè, non vanno fatte queste cose, porco Giuda, perché già dobbiamo rapportarci con migliaia di giornali che girano e dicono tante di quelle cazzate che invece basterebbero. Questa vostra telefonata è una telefonata ufficiale che smentisce quella di Genova? È una telefonata ufficiale, comunque, ditelo. E la colonna Walter Arasia che smentisce la telefonata di Genova? Certo, comunque dito le Brigate Rosse, guarda che non ci vuole molta fantasia, Ciao. Quello che avete ascoltato è una telefonata che ci è arrivata in questo momento, l'abbiamo mandata subito in onda, come avete sentito era la colonna milanese della colonna Walter Arasia delle Brigate Rosse che ha smentito la telefonata di Genova, la telefonata fatta a nome delle Brigate Rosse di Genova, ha smentito quindi la rivendicazione fatta sull'attentato di Bologna, sull'esplosione della stazione. È una telefonata che è arrivata in questo momento, l'avete sentita in diretta anche voi.